spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta in questo spazio di Radio 24 contro i pregiudizi, a tavola come nella vita, e dedicato alla cucina, ai gusti e ai sapori del mondo. Per farlo, come avete sentito, prendiamo spunto sempre da un film degli anni 60, un film antirazzista che mostrava però quanti pregiudizi possono covare anche in una coppia progressista che si trova a tavola, una figlia che vuole sposare a sorpresa un ragazzo di colore. Insomma, una situazione sicuramente molto lontana dalla realtà di oggi, però ci consente di trovare degli spunti per parlare anche oggi di quello che accade quando una famiglia italiana e una famiglia straniera si incontrano, oppure quando gli stranieri in realtà sono ormai italiani. Di questo splendido film, che se non conoscete vi consiglio di recuperare, prendiamo a prestito anche il titolo. Abbiamo scoperto che non siamo i soli ad aver avuto quest'idea, l'hanno avuta anche gli amici della Rete Italiana Cultura Popolare, che invitano gli italiani a sedersi a tavola a casa di famiglie straniere residenti nella loro stessa città per conoscerle, stringere nuove amicizie. Li abbiamo invitati questo pomeriggio per farci raccontare cosa succede. Allora andiamo a Roma, dove c'è per noi Donatella. Buon pomeriggio, Donatella. Buon pomeriggio a voi, ciao. E tu sei andata a casa di una famiglia peruviana e infatti abbiamo invitato anche la signora che ti ha aperto la porta, Sandra. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Come è venuta a contatto con questa iniziativa? Perché faccio parte di un'associazione che si chiama ANLI, dove cerchiamo l'inclusione sociale, diamo una mano con delle esperte per risolvere i problemi siano burocratici che sociali. Ci hanno contattato e ci hanno proposto questo progetto che dall'inizio ci è piaciuto moltissimo e abbiamo accettato volentieri. Tu hai preparato, hai cucinato, immagino tutta una giornata per queste persone che arrivavano da te. Che cosa hai preparato? Allora, con i primi piatti abbiamo usato fare due piatti, uno che è la causa ripiena, base di patate, poi il tamales e poi soprattutto il piatto, diciamo, più importante, parecchio particolare, il pollo al cilindro, fatto in modo molto naturale. Posso anche raccontarvi un po' la storia di questo benedetto piatto. Sì. È pieno dei dolci peruviani. Cos'è questo pollo al cilindro? In pratica, se cucina, è una specie di proprio cilindro, fatto in modo artigianale, al posto di un forno di quelli comuni, che fa un cilindro, si cuoce lì per spazio di un'ora. In pratica lo stesso grasso del pollo che cade nel carbone e nel legno fa aromatizzare più questa carne. Donatella, cosa, visto che Sandra ci ha spiegato cosa ha cucinato, a te cosa è piaciuto di più? Il dolce, la mazzamorra morada, perché è un dolce fatto con il riso, e su c'è una specie di crema, di marmellata, ecco la chiamerei, fatta con una pannocchia che però non è simile a quelle che troviamo in Italia, ma è viola, è più piccolina e crea quindi questa crema e si mangia il dolce con il cucchiaio, è molto buono, è molto saporito. Sandra, ma si trova questa pannocchia facilmente in Italia? Sì, qua in Italia sì, adesso siamo diventati un paese molteetnico, basta andare a Roma, parlo di Roma, al mercato questo di Piazza Vittorio, dove si trova di tutto, cioè tutta la roba sudamericana e tutte le parti del mondo. E poi, come diceva Donatella, sì, è una pannocchia in colore viola, però la mazzamorra in pratica si prepara separatamente del dolce del riso con latte, solo che è un dolce tipico di Lima, limegno, diciamo così. Di cosa avete chiacchierato? Ma in realtà appunto il cibo è stato un punto di partenza, perché poi a me quello che è rimasto veramente di quella cena è stato soprattutto il loro racconto di quando sono arrivati, perché c'era Sandra con suo marito ed anche suo fratello con sua cognata, e semplicemente sentire il racconto dalla viva voce di chi ha vissuto appunto un'emigrazione non facile, perché per i mezzi, per il fatto che appunto loro, mi ricordo, hanno raccontato di essere arrivati in Italia, per loro l'Italia 20 anni fa era Milano, e invece i mariti che erano arrivati già prima li aspettavano a Roma, ecco, anche cose di questo genere, oppure problemi con i documenti, problemi ad inserirsi. Ora sono tanti anni che Sandra e la sua famiglia sono qui, e però sentir parlare poi della crisi che hanno vissuto prima nel loro paese ed oggi nel nostro, purtroppo, quindi proprio le esperienze, l'aspetto umano, ecco, quello è ti ha colpito veramente di una cosa più. Che ti emoziona. Sì. Sandra, insomma, tu ti aspettavi di arrivare a Milano davanti al Duomo, sei arrivata a Roma. Quali sono state le difficoltà nei primi tempi che abitavi in Italia? No, sicuramente la lingua. Difficoltà in quanto all'accoglienza non tanto, perché gli italiani hanno questo sangue latino, come dico io, e quindi all'accoglienza non mi posso lamentare, perché sì, mio marito che ha iniziato, ha pensato ad andare in un altro paese, è rimasto qua perché le è piaciuto proprio la città e gli è piaciuto come era la gente. E poi sì, un po' abbiamo raccontato queste piccole difficoltà che erano le parti burocratiche, perché per fare il ricongiungimento familiare dovevi avere certi requisiti, si soffre un po', è un inizio, che poi piano piano abbiamo superato tutto e ci siamo inseriti bene, diciamo. E alcune cose ci sono colpite sicuramente, perché venivamo di un'esperienza. Io sono venuta negli anni 90 e sì, ricordiamo bene, in Perù gli anni 80 c'era anche il terrorismo, quindi si veniva delle esperienze un pochino difficili. Poi, come raccontavamo Antonella, vivere qua, cercare una vita migliore con tanti sacrifici, e adesso sì, anche qua c'è la crisi, quindi per noi non è una cosa molto brutta o impattante del momento, che l'abbiamo già vissuto nel nostro paese, cerchiamo solo di adattarci. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Sandra, stavi raccontando della crisi nel tuo paese, della crisi che adesso noi viviamo. E tu adesso hai dei figli, hai una famiglia qui in Italia. Sì, sì, ho due figli, sono nati, cresciuti qua, si sentono più italiani che peruviani, hanno già anche la cittadinanza, anche mio marito ha preso già la cittadinanza. E tu no? Per gli anni di residenza. Io lo farei più là. Prima di tutto era importante che i ragazzi si sistemassero dal punto di vista burocratico. Loro, essendo nati qua a 18 anni, hanno chiesto la cittadinanza e l'hanno ottenuta grazie a che all'inizio, quando sono nati, avevamo i documenti a posto. Invece per i ragazzi che purtroppo tutt'oggi hanno fatto 18 anni, sanno più dell'Italia che dei paesi di origine, per problemi burocratici che sono, per esempio il fatto che i genitori non avevano i documenti in regola, non possono avere la cittadinanza in automatico e diventa un problema. Ecco, certo. Magari questo non è opportuno, ma è buono farlo sapere, per sensibilizzare un po' alle persone che hanno in mano e che possono risolvere in alguna maniera questo semplice problema. Certo. I tuoi figli, dicevi, si sentono quasi più italiani che peruviani, lavorano in Italia, hanno fidanzate o fidanzati italiani? Fidanzatini, e studiano più che altro, perché i miei figli hanno 19-21 anni. Sì, per quanto amano il Perù, perché noi fin da piccoli abbiamo sempre cercato di farli amare il nostro paese, conoscere le nostre culture, parlano spagnolo, perché a casa, essendo tutti peruviani, parlavamo solo l'spagnolo. Però un piccolo esempio: quando c'è una partita di calcio e gli chiediamo, ecco, se giocassi Italia con il Perù, tu per chi ti faresti? Cioè, la risposta gli viene un po' naturale o gli viene un po' difficile, ma non lo so, speriamo vinca il migliore. Non succederà mai sicuramente, però vabbè, funziona così. Si sentono molto più italiani, perché sono cresciuti e hanno vissuto sempre qua. Solo voi con mi pena, sola va mi condena, correre. destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Dalla cena peruviana a Roma. Crema peruviana. Ingredienti. Dosi per 4 persone. 6 decilitri di latte, 60 g di caffè in chicchi, una bustina di vanillina, 150 g di zucchero, 100 g di cioccolato fondente, 5 tuorli più un uovo intero. Portate il latte a bollore in una casseruola. Toglietelo dal fuoco, unite i chicchi di caffè pestati e la vanillina. Coprite la casseruola e lasciate sobbollire 10 minuti a fuoco bassissimo. Sciogliete 100 g di zucchero in una casseruola con un cucchiaio di acqua e cuocetelo fino a ottenere un caramello chiaro. Immergete subito il fondo della casseruolina in acqua freddissima e aggiungete al caramello 2 o 3 cucchiaiate di acqua bollente per diluirlo. Rimettetelo sul fuoco bassissimo fino a ottenere uno sciroppo denso. Fondete il cioccolato a bagnomaria. Filtrate il latte aromatizzato al caffè, unitevi lo sciroppo di zucchero e il cioccolato fuso. Mettete in una terrina i tuorli e l'uovo intero. Con una frusta batteteli poco per volta. Sempre battendo, unite il composto di latte, cioccolato e caramello. Suddividete il composto in piccole pirofiline da forno e infornate a 150 gradi a bagnomaria. Cuocete la crema per circa 20-25 minuti. Controllate la cottura inclinando leggermente una pirofila. La crema dovrà tremolare, senza essere però solida. Togliete le pirofile dal forno quando la cottura è ultimata. Lasciatele qualche minuto a bagnomaria, poi fatele raffreddare in un luogo fresco, ma non in frigorifero. Decoratele con i pezzetti di caramello e servite. Io ringrazio Sandra e Donatella che hanno partecipato a questa, una delle tante cene organizzate in diverse città d'Italia della Rete Italiana Cultura Popolare. È un'iniziativa che si chiama come la nostra trasmissione, Indovina chi viene a cena. Ne torneremo a parlare subito dopo la pausa. Intanto saluto Donatella e Sandra, le ringrazio per essere state con noi. Rimanete con noi perché poi andiamo a Torino. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. E non pensavo che finisse così, così. Da giorno ho messo piede qui, sto lottando e non mangio. Se abbasso il mio sguardo, la mia pelle mi ricorda chi sono. Un bastardo con qualcosa di nuovo. Sto lottando e questo affanno mi dà la forza per farlo. La mia pelle è del colore della terra e cambia quando è sotto il sole. Bentornati a Indovina chi viene a cena con questa canzone della Fame di Camilla, del gruppo La Fame di Camilla, che si intitola La mia pelle. Ci spostiamo da Roma a Torino seguendo sempre l'iniziativa della Rete Italiana Cultura Popolare, che curiosamente ha rubato, come abbiamo fatto anche noi, il titolo a questo film degli anni 60, Indovina chi viene a cena, un film antirazzista. Allora andiamo a Torino perché partecipiamo adesso a un'altra cena tra pentole che bollono e profumi. Ci sediamo a tavola con Valentina e Metasebbia. Benvenute tutte e due. Buongiorno Valentina, bentrovata. Grazie. Allora, Metasebbia, grazie a voi di aver partecipato. Metasebbia è una signora etiope che ha invitato a cena Valentina e altre persone. Come è andata innanzitutto questa cena? Che cosa hai preparato? Da noi in Etiopia la base che facciamo è injera, poi vari sughi, verdure, carne. Immagino che abbia cucinato molto per preparare questa cena. Era emozionata? È tantissimo, sempre un'emozione ricevere ospiti diversi ogni mese, è molto bello e istruttivo anche per me. Quindi questa esperienza si rinnova di mese in mese, lei ogni mese a Torino ha degli ospiti italiani. Esatto. Come avviene? Aprite le porte, si siedono e non vi conoscevate prima? No, mai visti, ci conosciamo la prima volta. Aprire la porta di casa mia per ospiti è un'emozione. un'emozione, una conoscenza, un conquista in più. È mai capitato che a qualcuno non piacesse un piatto? No, perché faccio vegetariano e carne, per questo sempre accontento tutti. Mettesabia, la tua famiglia è composta da molte persone? Io, mio marito e i miei figli. E i figli come prendono questa cosa di avere degli ospiti italiani una volta al mese? Benissimo, per noi è semplice, anche sono nati qui, hanno sempre partecipato a qualunque evento etiope, si sentono per l'Etiope aprire la porta, ricevere ospiti è una bella gioia. Valentina, tu ti sei seduta a tavola con Mettesabia, era la prima volta che vi vedevate. In effetti sì, è un gesto privato di grande fiducia, Valentina, perché appunto aprire la porta di casa propria a delle persone che sono dei potenziali sconosciuti, no? Sì. Ovviamente tramite con la mediazione della rete italiana di cultura popolare, non è da tutti, soprattutto da persone che sono loro sul nostro territorio ad accoglierci. Certo. Quindi questo è davvero interessante. Volevo dedicarvi un pensiero. Molto spesso capita, ovviamente, che ci incontriamo, no, nella vita, a scuola, ma non solo, sul lavoro, con persone che arrivano da paesi differenti dal nostro, ma spesso non ci dedichiamo del tempo ulteriore da passare insieme, per esempio dopo la scuola, con i figli, non condividiamo il dopo lavoro. Mentre invece in questa occasione avviene, cioè ci si incontra e nascono dei rapporti. Di cosa avete parlato? Ci siamo conosciuti, quindi dalla cultura differente, dalle tradizioni, dalla situazione attuale nel loro paese, ma anche nel nostro, e soprattutto come vedono loro la nostra situazione, quindi sul nostro territorio, come vedono per esempio la nostra città. Mettesabia, come la vedete la città di Torino? Tu ci sei da molti anni. Sì, da 25 anni. È cambiata molto Torino? Sì, sì, non solo Torino, anche provincia, che abitavo nel provincia, che ho visto c'è una grande crescita. Sì. Grande crescita, in più, non lo so, me la sento la mia città. Proprio. Torni spesso in Etiopia? Adesso da 5 anni che non torno. Quindi avrai una grande nostalgia. Sì. Sì, tanta nostalgia, però per il momento che sto lavorando non ho tempo di andare. Certo, poi i gusti, il cibo, cucinare è anche un modo per soddisfare la nostalgia in qualche maniera. Tu dicevi, sì, che lavori in Italia e fortunatamente hai il lavoro, appunto, che cosa fai? Faccio mediatrice interculturale con pastorale immigrazione. Qual è la difficoltà più grande delle persone etiopi che vivono in Italia? Il lavoro. Quindi più o meno come le difficoltà degli italiani, diciamo. Esatto. Cambiamo colore, però i problemi uguali per tutti. Valentina, tu invece che lavoro fai? Io lavoro nell'ambito culturale e in più devo terminare e laurearmi in filosofia. Ti è piaciuto tutto a livello culinario? C'è un piatto che ti è piaciuto di più e uno che ti è piaciuto di meno? Credo che ogni conoscenza nuova aggiunga bellezza. Io ho mangiato tutto, era tutto squisito. È ovvio che sono, come dire, gusti che noi non ritroviamo quotidianamente sulla nostra tavola, ma proprio per questo, appunto, aggiunge conoscenza. Volevo segnalare che l'associazione organizza queste cene in diverse città in Italia, potete trovare sul sito internet a Torino, a Roma, a Prato, Arezzo, Salerno, in Salento, nelle province di Grosseto e Rieti, basta iscriversi all'associazione e prenotarsi. Attenzione però, non vale esprimere una preferenza sul paese perché magari ci basiamo sulla cucina che amiamo di più o il luogo dove appena siamo andati in vacanza. Lo scopo infatti è quello di aprirsi, gettarsi completamente in una nuova esperienza, magari verso la quale nutrivamo dei pregiudizi, è così Valentina, no? Esatto. Tu non avevi espresso una preferenza, sei capitata a una cena etiope. Esatto, ma poi sono stata anche dalla famiglia cinese, quella peruviana, quella argentina. Appunto, come dicevi tu prima, la cena, il cibo, l'esperienza gastronomica è un pretesto per l'esperienza di incontro, di relazione e socialità. E si creano rapporti, soprattutto rapporti anche a lungo termine, perché non è un evento di per sé stesso, ma si ripete nel tempo. Ecco, ogni mese c'è un appuntamento fisso. Certo. E quindi come perderselo? Mettesabia, qual è invece il piatto italiano che cucina anche a casa? La lasagna. La lasagna, viva la lasagna italo-etiope. Adesso diamo le ricette di questa puntata e io vi ringrazio per essere state Valentina Metasebbia con noi. Dalla cena etiope a Torino. Pane injera. L'injera è un pane rotondo dalla consistenza spugnosa e dal sapore un po' acidulo, dovuto alla sua lenta fermentazione, che ben si sposa con i sapori forti e molto speziati della cucina africana. Infatti è il pane tipico di molte regioni africane, dall'Eritrea all'Etiopia. L'injera si prepara tradizionalmente con una cereale particolare, che si produce solo in Africa ed è introvabile in Occidente, il teff. Noi lo abbiamo sostituito mescolando tre diversi tipi di farina, mais, 00 e integrale. L'injera funge anche da piatto e da posata per mangiare altri cibi. Si spezza infatti con le mani e serve da cucchiaio per raccogliere i cibi presenti sulla tavola. L'injera è una componente fondamentale di uno dei piatti più famosi della cucina africana ed Eritrea in particolare, lo zighini. Ingredienti per 10 injera. Farina di mais 125 grammi. Farina 00 125 grammi. Farina integrale 70 grammi. Lievito di birra disidratato 3 grammi. Se fresco 6 grammi. Acqua tiepida 250 ml. Acqua bollente 150 ml. Bicarbonato 2 grammi. Mescolate con una frusta in una ciotola capiente le tre farine. Sciogliete il lievito di birra disidratato in 250 ml di acqua tiepida e versate il liquido a filo sulle farine. Mescolate energicamente con una frusta per ottenere una pastella corposa, morbida e omogenea, che coprirete con la pellicola e lascerete fermentare per 2 giorni a temperatura ambiente. Trascorsi i 2 giorni avrete un composto pieno di bolle. A questo punto aggiungete 150 ml di acqua bollente e il bicarbonato. Mescolate con la frusta. Coprite nuovamente il tutto con la pellicola e lasciate riposare ancora per un'ora. Prendete un padellino rotondo e antiaderente, simile a quello per le crepe. Fatelo scaldare molto bene e versate su di esso circa 70 g di composto alla volta. Non appena inizieranno a comparire delle bolle sulla superficie, coprite con un coperchio e terminate la cottura. Una volta cotto, coprite il pane molto bene con la pellicola per evitare che si secchi. La puntata termina qui, ringrazio tutte le nostre ospiti in regia Peter Bescapè, mi trovate anche su Twitter @valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love. Noi parteciperemo a una cena etiope.